abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia, ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza, senza mandarti giù, mandarti giù. Ma tu sei per me qualcosa che non so spiegare. Ecco, so solo che mi sono innamorato di te. Vorrei poterti dare quello che non posso, per colpa delle mille personalità che mi muovono e mi cambiano i vestiti addosso. Non sono mai lo stesso di un minuto fa. Per questo non deludo, ma deludo sempre. Per questo prima lascio e poi dico per sempre. E mi sta bene tutto e poi non mi sta bene niente. Franelle sugli scogli, gelosi quanto basta. In fondo noi chi siamo senza io e te? Ti bevo da una tazza, senza buttarti giù, buttarti giù. Ma tu sei per me qualcosa che non so spiegare. Ecco, so solo che sì, mi sono innamorato di te. Di te che vinci, di te che piangi, di tutti quei tuoi piccoli dettagli, di quando ridi e quando poi ti incazzi, che nonostante tutto andiamo ancora avanti. Sì, io e te, tra applausi e fischi, che nonostante tutto poi non siamo stanchi, che nonostante tutto andiamo ancora avanti, sempre avanti. Ma tu sei per me qualcosa che non so spiegare. Ecco, so solo che mi sono innamorato di te. Ma tu sei per me una bottiglia buona in una sera storta quando ho giù il morale. Ecco, so solo che sì, mi sono innamorato di te. Mi sono innamorato di te.